con Chiara Manni dell'Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese per parlare di DocuD, concorso di cinema documentario a Pescara al Museo Colonna dal 2 febbraio all'11 maggio 2019. Chiara, ben trovata. Buongiorno, ben trovati anche voi. A che edizione siamo? Allora, DocuD è alla quinta edizione, però diciamo che quest'anno è come fosse una prima edizione, in quanto è il primo anno che abbiamo una sezione a concorso e una sezione fuori concorso, mentre gli altri anni era una semplice rassegna di documentari. Ok, ce la presenti un po'? Sì, dunque, quest'anno, come ho accennato, c'è questo concorso di documentari, tutti del 2018, e che abbiamo selezionato, sono sei documentari nuovissimi, ognuno tratta di una tematica particolare, ognuno diverso dall'altro, quindi abbiamo cercato di variegare un pochino, le varie tematiche trattate da questi sei documentari. Poi abbiamo la sezione fuori concorso che quest'anno, è stata appunto introdotta una cosa nuova che si occupa, essenzialmente di documentari di arte. Quindi saranno cinque titoli che si occupano di vari artisti di arte contemporanea, artisti internazionali. Quindi ci saranno artisti americani, anche un italiano, un australiano, e sono tutti documentari che sono stati realizzati da registi, ma anche registi che si occupano di arte o che loro stessi in prima persona sono anche artisti. E avremo ospiti qualcuno di questi registi. Mentre per il concorso, ovviamente, ogni documentario verrà presentato dal regista in sala e poi alla fine della proiezione ci sarà un dibattito con il regista. Nel corso di questi mesi le proiezioni che cadenza avranno? Questa volta su per giù siamo sempre tra una settimana, 10 giorni di distanza tra l'uno e l'altro, quindi in genere saranno tra il qualche giovedì, venerdì e sabato, si alterneranno ogni 10-12 giorni grosso modo, quindi 2-3 al mese fino all'11 di maggio, che sarà il giorno in cui ci sarà la serata di premiazione. Hai detto che ci saranno diversi autori come Sì, ospiti? infatti il primo sabato, adesso domani, ci sarà Roberto Montebello, che è un giovane regista di Pescara, che però è andato a studiare nelle Marche e ha vinto questo concorso in Cina col documentario Balance, che verrà presentato dall'interno del concorso di DocuD. Poi abbiamo una serie di altri documentari, ne dico qualcuno: Essere Gigione, l'incredibile storia di Luigi Ciaravola, e Valerio Vestoso, il regista, sarà presente anche lui. E così come anche Alessandro Sotie, La nostra pietra, che sarà presente il 2 marzo, insieme alla produzione. È una produzione tedesca, questo documentario è una coproduzione Italia-Germania. E poi avremo un altro documentario ad aprile che è stato prodotto dalle amministrazioni virtuose, che è un'associazione di comuni virtuosi che si è costituita recentemente in Italia, e è stato prodotto questo documentario Sogni Comuni di Alessandro Scillitani e Paolo Rumitz, in cui ci saranno le storie di quattro comuni, dovrebbero essere tutti liguri, che hanno realizzato delle particolari cose in campo di energia sostenibile e così via, quindi molto molto attuale come tematiche. Quindi grosso modo diciamo che sono questi, ne manca uno che ancora dobbiamo stabilire, diciamo che abbiamo selezionato tutto, ma c'è ancora qualcosa da definire a maggio. In ogni caso posso accennarvi qualche autore invece dei documentari d'arte, per esempio Gianni Novak, che è un attore australiano che poi attualmente vive negli Stati Uniti. Poi c'è un altro documentario su una scultrice americana, Beverly Pepper, I registi sono rispettivamente quello di Beverly Pepper, Marco Agostinelli, e Gianni Novak, la regista Lucilla Salimei, che dovrebbe essere presente alla proiezione e poi fare un dibattito insieme al pubblico, parlare un po' di arte contemporanea. Okay. Chiara, quali sono stati i criteri di scelta di questi lavori? Dunque, veramente ce ne sono arrivati prima che noi decidessimo di fare questo concorso, all'inizio del 2018, sono arrivate un sacco di proposte di documentari per il festival. Purtroppo noi il festival da qualche anno non l'abbiamo più fatto per motivi, dico chiaramente per motivi economici, proprio tutto lì perché era diventato troppo oneroso. E allora ci è venuto in mente, visto che avevamo tutte queste proposte, di cominciare a esaminarle. E poi abbiamo detto perché non fare almeno un concorso e dare un po' di risalto a tutte queste opere documentaristiche che ogni anno si producono in Italia. Quindi abbiamo selezionato attraverso tutto quello che ci è pervenuto nel 2018. E Ok. quindi per quello anche abbiamo deciso poi di selezionare tutti i documentari dell'anno passato. In chiusura, Chiara, ci lasci tutti i riferimenti internet per seguire la programmazione? Sì, ovviamente la cosa più semplice è andare sul sito www.webacma.it e sulla home page troverete anche tutti i riferimenti Facebook, sia per la pagina Facebook di DocuD, sia per la pagina Facebook dell'ACMA, che anche quella del Festival, che comunque mette sempre le notizie sul concorso. Quindi basta www.webacma.it e lì c'è tutto. E allora ricordiamo la nuova edizione di DocuD, concorso di cinema documentario a Pescara, Museo Colonna, dal 2 febbraio all'11 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento a Chiara Manni di ACMA, Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese, che organizza. Chiara, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie anche a te Federico e a tutti gli ascoltatori, arrivederci.